metti, non parliamo. Eccoci qua, pillola rossa, non siamo in anticipo, c'è una rassegna stampa che mandiamo con Marcello Suolas, che è tornato a grandissima richiesta, ragazzi. E ve la beccate questa pillola informativa. E vai di rassegna. Buonasera, buonasera e ben ritrovati. Dunque, se volessimo dare un nome a questa pillola nella pillola, questa pillola di notizie e commenti, più commenti che notizie devo dire, perché di notizie siamo letteralmente bombardati ultimamente, invece di commenti di gente sana di mente, ne vedo pochi sia nel mainstream che in rete. Dicevo, se volessimo dare un nome, potremmo dire che questa piccola pillola si chiama "C'è un aggressore e un aggredito". Buon Henry Kissinger, segretario di Stato di parecchie amministrazioni statunitensi, un giorno ebbe a dire: essere nemici degli americani può essere pericoloso, esserne amici può essere letale. Lo sa bene Saddam Hussein, che ha fatto 10 anni di guerra all'Iran, quando era caudillo dell'Iraq, per conto terzi, in particolare per gli occidentali, nella fattispecie per gli Stati Uniti, ed è finito impiccato. Ed ora lo sa anche il nostro ministro della difesa Guido Crosetto, che in viaggio di piacere a Dubai a recuperare la sua simpatica famigliola è finito sotto le bombe degli iraniani, perché i cosiddetti alleati, a cui lui e il suo governo portano l'acqua con le orecchie, se ne sono guardati bene dall'avvisarli su ciò che stavano andando a fare. La misura di quanto sia ridicolo questo governo, e probabilmente la nazione tutta, la dà l'intervista che ha dato ieri il ministro degli esteri italiani, detto El Pimpa, dicendo che lui non ne sapeva niente di dove stava il nostro ministro della difesa, che non lo sapeva dove, quando e come era partito. Cioè, ma tu sei il ministro degli esteri, sei la Farnesina, ma tu devi fare assistenza a qualsiasi cittadino italiano all'estero in uno scenario di crisi. Ragione di più se tu un tuo collega di governo, e ancora ragione di più se è il ministro della difesa. Ma rendiamoci conto, ma siete dei pupazzi, siete dei Muppets. Bene, adesso vorrei risvegliarvi un ricordo. Nel 1999 nasce il manifesto fondativo dei neocons statunitensi, i neoconservatori. In questo documento vengono citati 7 paesi cosiddetti canaglia, che sono nell'ordine Iraq, Afghanistan, Libia, Siria, Iran, Cuba e Corea. Mi fa venire in mente questa cosa. E voglio dire, quando qualche commentatore del tubo indica Trump come l'epico eroe che combatte contro i poteri forti, ma che cazzo di droga si è fatto? Ancora qualche commento, poi vedo se riesco a arrivare su notizie, ma qualche commento ancora me lo dovete concedere. Allora, questi personaggi che hanno agito in queste ore aggredendo uno stato sovrano, sono riusciti a farlo, aggredire uno stato musulmano durante il Ramadan. La prima cosa che hanno fatto è stato uccidere la guida suprema. La guida suprema dell'Iran non era la guida suprema

Ora, dopo 4 anni di guerra, dove l'Europa partecipa con tutte le sue industrie di armi, che stanno fatturando come dei paperoni, i soldi statali vengono dirottati in questo settore a scapito di strade, scuole, piscine, teatri, biblioteche, trasporti pubblici. Da 4 anni viviamo in un'economia di guerra dove tutti i prezzi sono schizzati alle stelle. Fino a qui era storia, non l'ho certo detto io, esposizione ordinata di fatti e avvenimenti umani del passato. Passiamo alla matematica. Oggi noi compriamo il gas liquefatto che proviene dal Qatar, ma di cui il mediatore è l'USA, gli Stati Uniti, a 4 volte tanto di quello che lo pagavamo quando lo compravamo naturale dalla Russia. Coi nuovi avvenimenti, lo stesso gas, ma anche il petrolio, verranno a costare molto di più di queste 4 volte tanto. Questa è matematica elementare. Finiamo con la storia. I famosi liberatori dai regimi totalitari che sono durati 20 anni l'uno occupano militarmente, culturalmente ed economicamente il nostro paese da 81 anni. Meditiamo, gente, meditiamo. Questa è Pillola Rossa. Dovrei averne anch'io i ferri dentro, invece non me l'ha messo nessuno, ma cazzo. Con i ferri dentro sei a metà dell'opera. Comunque, sì, è vero, da quando gli americani ci hanno invaso con la loro eroina e poi con la loro cocaina, è tutta colpa degli americani, dei sudamericani, gli americani, che sono la stessa cosa. Non si sono mai chiesti perché una società ha bisogno della cocaina per continuare a lavorare, a vivere, ad avere rapporti sociali. Non lo so, o la liberalizzano o ci avranno sempre 1000 cinturrino. Oh, Allora, quindicesima puntata, la prendiamo così a braccio. E è ritornato Marcellus Wallace 10 minuti prima per la rassegna stampa. C'è stata una ripetizione perché insomma è stato numerato il file, e quindi avete sentito due volte la stessa cosa, che però cioè, è un po' come studiare, no? A ripetere. Non abbiamo ancora il numero di telefono, ma lo avremo il più presto possibile, sì, per poter, sì, intervenire in diretta. Promettiamo mari e monti da una vita. Assolutamente. E che altro dobbiamo dire? Ritorna poi Radio Ulisse con Arebu, mi sembra. E, sono saltati i genovesi, sono stati ingorgati nelle tangenziali di Genova, quindi oggi siamo i primi. C'è crisi dappertutto, per citare. Questi sono i Malacchia. Mettiamo prima un po' di pubblicità. Mandiamo il palinsesto, va, che sennò poi ci rognano contro. Giusto. Infileresti mai tua figlia di 3 mesi in una lavatrice? No. Lanceresti mai i tuoi pesci rossi con la fionda addosso al tuo gatto? No. Investiresti mai con un tir tuo fratello? No. Scaricheresti mai film da internet? Ammazza. Scaricare film da internet è reato. Sì, lo so, ti ammazza, nel senso, sì, a voglia. Ah sì? Scarico tanti. Ma pure stasera dovrei trovarne uno già scaricato, perché sta lavorando al computer da stamattina. Pago, non detto. Fatto. Ho detto niente a discussioni. No, non te lo permetto. Ascolta. Io non ti lascio. Ascolta. Io non ti lascio. Ascoltami. Io non ti lascio. Ascoltami. Non abbiamo nessuna possibilità insieme, ma se sono solo posso farcela. Sono in ottime condizioni, Matilda. Ho un mucchio di soldi da Tony, proprio tanti. Li prendiamo e ce ne andiamo via insieme. Solo io e te, ok? Vai. No, ci sono per non farmi preoccupare. Arrivi sei splendente, ma guardandomi sprezzante, dici l'uomo vale niente. Poi togliendoti il rossetto spieghi a un essere imperfetto, prepotente e interdetto. Intanto mentre cade la tua gonna chiarisci, questo è l'anno della donna, io combatto, mi riscatto. Ed infatti ti riscatti, mentre è chiaro che combatti con degli argomenti adatti. Poi vedo gli occhi tuoi che vanno a bagno nei miei e domando chissà perché scegli un essere come me, ma mordicchiandomi qui nel lobo pendolo all'orecchio come vuoi tu, dici dai non parlare più e mi trascini più giù. Tra una dura femminista ed un morbido maschista, questo amore è una svista. Bruci in piazza un reggipetto, mentre forse per dispetto te lo metti pure a letto. E poi sarei curioso di capire il fatto che tu giri in calze nere sconvolgenti, che è un piacere. Spieghi, voglio dimostrarti che voi siete dei contorti, senza queste siete morti. Poi mi dici che per quanto donna un giocattolo non sei per divertire me. Poi occhi tuoi che vanno a bagno nei miei e domando chissà perché scegli un essere come me. Ma mordicchiandomi qui nel lobo pendulo come vuoi tu, dici dai non parlare più e mi trascini più giù, giù, già. Ma abbiamo ascoltato i Tre Allegri Ragazzi Morti prima con Una Cosa Semplice e invece abbiamo avuto l'onore di ospitare in Malachia con Cristina e Lupo un disco del 2006 da Milano, e mentre invece abbiamo un bonaccione, provocatoriamente bonaccione, Antonio Buonomo con Le Femministe. Questo è un riepilogo dei pezzi messi che ci riproviamo ogni tanto a dirli in contemporanea, a dirvi, sì, per mantenere che, insomma, la serietà. Abbiamo iniziato tra l'altro con, in epoca sanremese, questo Fricantoni Dannata. Sì, sì, sì. Vabbè, noi, visto che era un programma di musica italiana, tenderemmo a costruire un'educazione musicale italiana e quindi tentiamo di essere coerenti. Era di Sanremo anche Buon Uomo, Tra l'altro 1976, non perché voglia ripercorrere Sanremo, ma giusto esatto, per darvi testimonianza, ma per darvi traccia. L'abbiamo fatto la puntata scorsa, lo ripetiamo di certo. Questo è il fegato cosciente del paese. Brevissimo, che pensa. Pillole dell'imperatore che arrivano, che ma pensa. Penso che le sentirete ogni tanto, sono sparse qua per la puntata. L'incoscienza del pancreas. C'è anche Radio Cane, Radio Porco e tutto il resto. Pronto, pronto, pronto. Erano... Arriviamo, ragazzi, era... perché veramente il tecnico ci ha abbandonato, non so se è nascosto, arriva, ma... Fuck! Ion Voice featuring Tra Bocca, Tendenze Suicide. Penso che il pezzo sia abbastanza recente, tra l'altro. O no? Non so. Non so. Mandiamo un contributo dalle spiagge italiane. Guys, are you ready? Are you sure? Scusa, ma quelli? Ma no. Ma stiamo scherzando? Ma sono seri. No, no, no, no, no, no! No! Dovete andare! Go away! Vai! Andare, andare! Ancora, ce andare. N'hai da farmi strada, vai, andate, vai! Andate! Ma dove va? Vai! Fermo. Okay. Non lo vedi? Ma cosa? Sono bianchi. Come sono bianchi? Sono bianchi e biondi. Sono bianchi e biondi. E quindi sono ucraini. Sorry! Scusate! Benvenuti! Non l'avevo visto! Welcome! Welcome! Venghilo, prego! Prego! Benvenuti! Mi scusi, però. Cosa? Però è un po' strano. Cioè. Nel senso, c'è. Gli ucraini in barca dal mare. Cosa devono venire? In barca dalle montagne? Vorrei introdurre qualcuno che ha parole, sicuramente rima e spiega molto meglio di me. E direttamente dalle strade, direttamente in diretta da questi giorni, da questi periodi, è appena uscito. Non è ancora la colonna sonora delle peggiori vie, ma potrebbe benissimo diventarlo. Come? Nuovo, sì. Ci sta dicendo cosa succede, molto meglio di quanto lo diciamo noi due. Io lascerei la parola a Danno. E andiamo tutti, no, vamos tutti alla playa. Eravamo alla playa e rimaniamo alla playa. Sei nella trappola, zio, e mo non scappi più da sta room. Camouflage, faccia di metallo come Doom. Cuccioli sopra la base, va nel boom boom. Scorre il sangue più del whisky in un saloon. Sono rime a punta cava messe al bando come boom boom. Elicotteri, mirini con lo zoom. C'è chi mi sniper pronti sui palazzi bel cartoon. Camionette nere per le strade di Tulum. Il mondo è mano, miliardario pazzo e l'ex Luthor. Fare un match Undertaker contro l'ex Luger. Tutto finto, tutto fake, fatto per manipolare. Tutto fatto a cazzo per non funzionare. Culto del leader, un solo iter. Il vecchio mondo aspetta per il Reich un nuovo Hitler. Un desiderio scatologico di morte. Pasolini, girone della merda, si aprono le porte. C'è puzza di fogna, te lo devo dire. Fra un po' viene giù tutto il palazzo. È inutile che stiamo qui a fare MC se poi non dimo un cazzo. Io sto coi piedi per terra e so sul piede di guerra. Sto coi piedi per terra e so sul piede di guerra. Sto coi piedi per terra e so sul piede di guerra. Troppi anni che ogni giorno piove merda. Stanno con la carogna qui, cani affamati, figli di Caino. Puzza di fogna, zescono ratti dal tombino. Braccia tese come corde di violino alla mia gola. Distorcono il significato a ogni parola. La pressione sale a 100.000 millibar. Droni kamikaze, pare il mondo di Kiashan. Politici sul palco, nuove superstar. Tutti a libro paga, tutti agli ordini dei clan. Non fa una piega, cartelli che controllano il pianeta. Già, e non è maga e non è mega. Tutto gira intorno alla moneta. Società segreta, benvenuti al mondo fase omega. Lo scenario è disumanizzante. In bilico fra antico testamento e il neuromante. Mo' che ogni voce è diventata dissonante. Tu scegli la tua croce cucinato fiammeggiante. C'è puzza di fogna, te lo devo dire. Fra un po' viene giù tutto il palazzo. È inutile che stiamo qui a fare MC se poi non dimo un cazzo. Io sto coi piedi per terra e so sul piede di guerra. Sto coi piedi per terra e so sul piede di guerra. Sto coi piedi per terra e so sul piede di guerra. Troppi anni che ogni giorno piove merda. futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zippamos alla playa. Io adesso mi sono veramente rotto i coglioni. Quindi ascoltate bene tutti, eh? Io non sono più disposto a partecipare a questa farsa, perché questa è una farsa. Da qui a poco andrò ad usare un linguaggio spiacevole per qualcuno, purtroppo mi dispiace, ma mi avete messo con le spalle al muro e questo è l'unico modo per uscire da questo incubo. Voi non siete la realtà, perché purtroppo i miei migliori amici non sono un... Uno storno. E mia sorella non è una... Il 98% delle persone che conosco sono bianche, ma non per qualche ragione, perché sono cresciuto in un posto del cazzo. E purtroppo è così. E porco... E porca... Vaffanculo. E vaffanculo pure a pure. L'anima mia che ha studiato da cattolica, l'anatomia l'ha conquistata nascondendola, la geografia se l'è imparata stando scomoda, in sacco a pelo nei deserti dell'America, la fantasia l'ho liberata restringendola, spazzando via questo silenzio che mi stomaca, filosofia nei fondamenti resta incognita, e il sesto senso conta più della. Ci manca il tecnico, Cristo. Stiamo nuotando controcorrente. E nel frattempo abbiamo ascoltato Angela Baraldi con Avrai. Sbrai. E Angela Baraldi insieme a Massimo Zamboni, quindi c'è questa connection. SCP tra l'altro è gratis oggi, stasera, al Bico. Quindi una di quelle rare occasioni in cui l'evento è gratis, quindi si può entrare adesso. E cosa c'è in giro? Come abbiamo selezionato qualche evento così sporadico nelle zone qua limitrofe, quindi a parte Angela Baraldi al Bico praticamente adesso, se magari suona tra un'ora, quando finisce la trasmissione andate, no? E c'è sabato Bar Onda Benefit, quindi c'è i Cranial Putrefaction con i Tormento e vari altri gruppi, quindi serata un po' tuppa tuppa, no? Cioè, e, al CIC Sotiac, Zebra Fink e Inner Ice, quindi pochi oboli per questa serata in Corvetto. E abbiamo poi Domine, non so se riusciamo a metterli dopo, che questo storico gruppo, un po' gli Iron Maiden de Noatri, diciamo. E vi dopo facciamo Tequila Limon, no? Esatto. E adesso vi facciamo sentire invece questi che fanno gruppo italiano, ovviamente. Questa fa parte dei fuori quota perché canto in inglese. E fanno da spalla i Critopsy, suonano dalle parti di Roma. Sono i Disease Illusion. Qua, se vi faccio vedere il grafico della musica, insomma, è tutto a picco. Scusate, dopo di noi ci sarà Rebù da Livorno, ritorno a grande richiesta, giusto. Diciamolo, Arebu dopo la pausa di settimana scorsa ritorna a grande richiesta. Non vi anticipiamo il tema, ok? Ma andiamo con i No Ground invece. This is Illusion, No Ground. Black bus, a shoe. come dicono quelli, addentellato di storia. Nel 2011 la Libia, che aveva appena firmato un contratto esclusivo con l'Italia per la fornitura di gas naturale, ci ricordiamo il circo Barnum a Roma con cavallerizze, cavallerizzi, le tende, viene attaccata dagli Stati Uniti d'America con la partecipazione della NATO. Il regime dello psiconano mafioso Bruscoloni crolla misteriosamente dopo 20 anni nel giro di una settimana. Il leader politico della Libia, Muammar Gheddafi, viene incaprettato e ucciso nei pressi di un oleodotto. La Libia smette di esistere come stato sovrano, per trasformarsi in un agglomerato di tagliagole specializzati nella tratta di esseri umani, che forniscono manodopera immigrata sotto costo, senza tutele e senza diritti, all'Europa civilizzata. Il regime italiano, dopo 20 anni, crolla e scompare come neve al sole e viene sostituito senza elezioni dirette da un governo messo su dal Fondo Monetario Internazionale, con un rappresentante di nazionalità italiana, tale Cesare Monti, noto banchiere. Il gas della Libia scompare. La Libia scompare. Il governo Berlusconi scompare. Governa Monti senza essere stato eletto da nessuno. In storia viene definito golpe bianco. Benvenuti nella realtà, questa è Pillola Rossa. Zucchero, ho una pistola in tasca o sono solo contento di vederti? Ovviamente ho una pistola in tasca. Qualcuno ha bevuto un po' troppo questa sera. Speriamo che questa giovane donna non incontri qualche delinquente. Signorina, buonasera. Buonasera, signorina. Ma che bei poliziotti. Oh, per fortuna sono arrivate le forze dell'ordine. Vediamo adesso cosa combinano questi porci maschilisti. Signorina, le serve aiuto? Mi sono sempre piaciuti gli uomini in divisa, esclusi i pompieri, ovviamente. Signorina, le ricorda che siamo due tutori della legge in servizio. Uomini di Stato sposati con l'arma. Polizia. Ma solo io sento caldo. Signorina, sì, è febbraio, per favore. Si rivesta che si prende un malanno, avanti. Polizia, fa caldo. Ma con questi occhi? Cosa? È lei che mi spoglia? Io? Spogliatoio. Oh. Signorina, per favore, si ricomponga. Allora. Avanti. Copritemi. No, signorina, allora io e il mio collega siamo una coppia omosessuale. Ma veramente? Io lo amo. Ma veramente? Sì. Scusate, io non sapevo, non volevo. Sì. Arrivederci. Io ti amo. Anch'io. Ovviamente non ci sono omosessuali tra le forze dell'ordine, esclusi i pompieri. Non che sia un problema, sia caro, però non ci sono. C'era qualcuno l'altro giorno che ho sentito che diceva: l'unica cosa che è rimasta in Italia è prenderlo nel culo, perché è qua, scoppi di qua, ti viene l'AIDS, così ti viene il Covid. Prenderlo nel culo è un attimo. Ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Un servo tempo fa di già una piazza pregava a Cristo un croce e ci dicia: Cristo lume faccione ne sciapà. Tira fora le reti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fora le reti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fora le reti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fora le reti. Ricordati che ogni persona ha una sua dignità, sogni e emozioni che la vita ci dà. C'è chi ancora per il potere ha venduto l'anima, disposto a distruggere ogni briciola di verità. C'è chi dice non mi va, non mi va, non mi va, se c'è chi domina, sdomina, insulta la mia umanità. Guerra chiama guerra, lotto per la mia identità, nonostante troppi e troppi siano le difficoltà. Stato di

compromettendo totalmente la nostra reputazione all'estero. Poi un'ultima cosa importante, siamo ancora totalmente convinti che Ruby sia la nipote di Mubarak. Mubarak, insomma, come cazzo si dice. Scusami Forza Italia, ma mi sembra un percorso estremamente coerente. Lo so, infatti, io stavo cercando il corso di rumba che mi hanno detto che era pieno di figa. E ti sembra un corso di rumba? No, ma tu mi sembri una gran bella figa però. Vabbè, io vado a ballare, dai. Vabbè, direi che per oggi abbiamo terminato. Era... prima di questo c'era Roy Paci con La Mala Razza, ragazzi, giusto per non rimanere indietro. E andiamo ad ascoltare The Black Man con l'Urlo Negro? Sì. Una di quelle riprese da Mike Patton. Non so se avete anche notato gli incastri in italiano con tutte le pubblicità, eh? Gran lavoro di regia. Quante cattiverie, ragazzi. Ragazzi, quante cattiverie. Blackman, l'Urlo Negro. Questo è un pezzone. Con l'Urlo Negro, con questa storia di rottura urlata datata 1966, quindi per l'epoca è un pezzo insomma significativo, di rottura con i vari Claudio Villa eccetera. Beh, chiediamo a tutti, non vi siete chiesti anche voi in questi giorni sui giornali questi 200 studenti bloccati a Dubai? Sì, effettivamente. Una domanda che sorgeva spontanea. Ma ho visto anche qualche video, ho detto, ma perché ci faceva questa 19enne a Dubai? Cioè, noi a scuola la gita era a Quarto Cagnino, a Sesto Calende, se andavi in una capitale straniera, limitrofa era il Strasburgo, massimo. Ho fatto Strasburgo io. Strasburgo, tu che hai potuto, io neanche ad Alessandria, pensa te. E quindi... questi qui a Dubai, abbiamo fatto una piccola indagine, giusto per capire cosa ci facevano 200 giovani menti. Solleviamo il tappeto. Allora, sollevando il tappeto, scopriamo che chi ha organizzato il viaggio, cioè tra l'altro sulla stampa, questi vengono classificati come corsi. Questi 200 studenti erano a fare dei corsi. Corsisti. A Dubai. Corsi di cosa? Istituiti dal World Professional Consulting Inch. Dicesi un'associazione di professionisti privati italiani, che non vuol dire assolutamente nulla associazione di professionisti privati italiani, ma in realtà questa World Professional è l'estensione della World Professional Inch, che in realtà è un'organizzazione di intermediazione commerciale, cioè cerca acquirenti per ditte produttrici. Nel senso, se tu vuoi vendere del glifosato, delle armi, dei virus, ti rivolgi a loro, poco importa cosa. Questa ditta con sede a Skookie nell'Illinois, neanche sapevo esistesse Skookie. Il direttore esecutivo è un tal Giuseppe Cataldo, laureato in Catania nel 2020. No, col cazzo, scusate. Nel 2020 prestò il nome per l'acquisizione della compagnia islandese WOW Air, che era stata comprata da USA Aerospace Associates, la stessa che voleva comprare l'Italia. Ma la direttrice di questa USA Aerospace viene indagata perché è coinvolta in traffico d'armi fatto dagli ucraini che proiettano armi in Sudan. E quindi chi ci mette mette la faccia per comprare questa WOW Air? Questo Massimo Cataldo, che era già stato presente dell'Imetec Group, che quando digiti su internet esplode il computer, ti dà pagina bloccata. Ma comunque l'unico dato che emerge è che è una società di Chicago, così come la precedente. E anche la World Professional Consulting è una società di Chicago. Quindi la domanda sorge spontanea: perché una ditta di speculazione finanziaria porta 200 giovani menti a Dubai? Sicuramente non sta facendo beneficenza, sorge spontanea, visto speculazione finanziaria. Sicuramente no, sicuramente c'è qualcosa di, non lo so, cioè, che non torna, no? C'è qualcosa di... Tentano di formare le menti per quelli che proclameranno le prossime guerre. Tu dici che è un corso di formazione per dichiaratori di guerra, queste robe qui, mediatori per diciamo quelle società diciamo poco trasparenti con mille sedi ovunque, che poi alla fine fanno quello che fanno, ovvero trasportare, vendere armi di sottobanco, eccetera. Sì, un po' tutto il cinema, il colossal che sta avvenendo adesso. Cioè, tra l'altro c'era qualcuno che ha fatto delle indagini su Facebook e pubblicava che l'Italia è il secondo partner dell'Iran a livello commerciale per quanto riguarda l'Iran, quindi vabbè, no, lo dico così per lo dico così per, visto che gli studenti vanno a Dubai, mi collego a ruota libera, a ruota quadrata, cazzo, altro che libera. È scomparso tutto? Pronto? Non mi sentivo più, adesso meglio, sì. È riscomparso. E saranno che t'hanno sentito da Dubai? Probabilmente, o forse è l'ENI che insomma in questi giorni era stata convocata perché già stanno un po' mettendo avanti sul prezzo. Sentivo stamattina su Radio 24 che tra virgolette giustificavano il già aumento del carburante. Già giustificato, magicamente. Già giustificato per una questione di previsione di spesa. Vorrei dire che però uno dice vabbè, previsione spesa, però non lo sai se poi effettivamente adesso è vero, ci sono le navi bloccate, tra l'altro cos'è, notizia di stamattina che è dalla seconda guerra mondiale che non c'è un attacco navale. Perché stamattina dicono, cioè almeno notizie lette di straforo così, ma abbastanza noto, insomma, è stata abbattuta una nave a largo dello Sri Lanka, nave iraniana. Dicono anche un sommergibile americano. Da un sommergibile americano, un missile dal sommergibile americano. No, e tra l'altro vorrei far notare che le notizie su internet, visto che si va verso la mona informazione, hanno un ritardo dalle 6 alle 12 ore sugli avvenimenti reali. Vorrei ricordarlo a tutti, sì, cioè, sì, qualsiasi cosa cercate sulla rete va dalle 6 alle 12 ore in ritardo, la latenza, come si diceva in radio. Parecchia latenza, 6-12 ore. Assenza di notizie. E no, l'ultima, volevo concludere questa cosa con le dichiarazioni del primo ministro italiano, la dittatrace del regime italiano, che diceva ieri che se questi iraniani non la smettono di continuare ingiustamente questa, non potranno arrivare alla pace, cioè dopo avergli ammazzato. Esatto, c'è una cosa un po' assurda, che c'è la condanna della risposta iraniana, ma non nessuno, cioè dei pochi colpi andati a segno degli iraniani, perché dopo hanno lanciato tipo 400 missili, 380 sono stati intercettati, e quei 20 che sono arrivati sono stati subito condannati dall'Europa, tranne c'è uno stato che fa un po' da mosca bianca, che è la Spagna. Sanchez libera tutti, cioè è proprio giusto dire Sanchez libera tutti. Va bene ragazzi, vi mandiamo gli Iperwolf dopo queste notizie qua. Ma sì, Iperwolf. Dai, che loro tanto è l'ultimo. Ha capito? Ottimismo e fastidio. We'll be right back. Allora, giusto per aggiornare su gli ultimi prezzi di guerra e come cambiano velocemente, che prima dicevamo, insomma, del carburante, che da un giorno all'altro, insomma, incomincia a esserci la coda, incomincia a esserci 5 centesimi, 10 centesimi, 20 centesimi, e allacciandosi anche all'attacco del sommergibile, voci di corridoio danno che il primo volo oggi per partire dallo Sri Lanka costava 28.000 euro. Mentre invece c'è un'altra diretta, in diretta, prima di arrivare in radio gli americani avevano detto che gli spagnoli, dopo essere stati quelli che liberavano tutti, invece avevano ammesso l'aiuto all'America, agli Stati Uniti d'America, e invece, notizie non di corridoio, Spagna smentisce categoricamente il bluff americano. È smentito, è tutto falso. È smentito, si giocano su bluff e contro bluff. Ma d'altronde questi hanno scatenato un attacco missilistico durante un negoziato di tregua. Giusto per parlare in italiano, visto che è Pillola Rossa, programma di musica italiana. Sì, giusto, ma d'altronde si parla solo di questo in giro. Ma sentiamo l'imperatore, dai. Sentiamo no. Come si... L'imperatore e i vari organi caldi del paese... C'è anche Radio Cane, Radio Porco e tutto il resto. Tua figlia adora i Backstreet Boys e vorresti prenderla a randellate sulle gengive? Tuo figlio sbava come un Terranova sulle foto delle Spice Girls, svegliandosi il mattino dopo con delle preoccupanti occhiaie? Cambia la tua musica! Dopo lo strepitoso successo del film premio Oscar, Ya Titanic, storia di un ferry boat affondato tragicamente sulle sponde del Simeto, buttala mia quando mi ha cattato il biglietto, è uscito il nuovo album del cantante più bello del mondo, Buci di culo infranti, il nuovissimo album di Peppino Di Capri, idolo delle teenagers da Gallarate in giù, e tra pochi giorni in tournée nelle più pittoresche località mondiali. 7 luglio Paternò, 11 agosto Lercara Fritti, 32 ottobre Passo Pisciaro sull'Etna, e a Natale a Tetralia Sottana. Peppino Di Caprio, scoprilo anche tu. Organizzazione Pippo Sciuto per Nerdy Concert. Va bene ragazzi, l'avete capito, anche noi viviamo nel caos e siamo sballottati qua e là come tutti quanti, un po' del resto, ma cerchiamo di tenere la linea dritta e cerchiamo anche un centro di gravità permanente. Ah, hai detto. Ah. Hai detto. Quindi ormai sappiamo chi è. Faccia mai cambiare idea sulle cose, sulle italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un cerco, centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Siamo a quel punto in cui si apre la rubrica di poesie, dove Valentina Blu e Nutrio Mannaro si esibiscono per gli ascoltatori di Pillola Rossa con il loro formato in tarda serata di trasmissione. Il nostro ecco, tra l'altro, tra gli ascoltatori, visto che si parlava di, c'era chi scriveva che la sua gita più lontana è stata ad Alberobello di Otrullo, e questo era per ricollegarsi alle frasi dette poco tempo fa. E va bene, siamo comunque con voi, siamo contenti e felici di diffondere i nostri 5 ascoltatori, scusate 4, perché quello in Groenlandia non riceve, non può ricevere, riceve solo in differita, quindi diffondiamo per i nostri 4 ascoltatori che salutiamo calorosamente, spariamo la clamorosa palla che avremo un numero di telefono dove chiamare in diretta, questo sì, il nostro tecnico ci ha abbandonato per soldi, anche questo sì, e non so, tanto non ci sono contratti da rivedere perché qui pigliamo solo pedate nel culo, ma esatto, lo facciamo volentieri, esatto, per restare a galla. Quindi, e mantenere il timone, la linea di rotta a tutti i nostri, ragazzi, cari. Questo è un mashup delle poesie di Valentina e il Nutrio che stanno collaborando con questa grandissima trasmissione da Valentina Blu e Nutrio Mannaro da Milano, settimane da questa parte. A loro. Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori di Radio ZAM. Lasciatevi trasportare da questa nuova onda poetica per ascoltare i miei scritti del giorno. Per oggi ho preparato 2 ritratti del silenzio vissuto intimamente. Benvenuti, buon ascolto, Valentina Cavera. La stanza è immobile, non parla, è muta di emozioni, si fa di silenzio e margherita, ci passa la notte, ci passa il giorno, aeree presenze di quotidiani mondi, che una coperta a volte fugge, a volte cade, e tutto diventa chiaro, come un sogno, o come la vita che corre fuori fin nel viale, dove poi anche l'occhio si perde. Costeggia di luce la mia finestra, il sole raggiunge le case, cambia i colori del tempo, come fosse un dio. Ricordo così il giorno più bello, fiero e gigante, come custodisse in silenzio il battesimo dell'aurora. Tesoro di nascosto, e quando d'oscuro irrompe la notte, brilla di vita nella stanza buia di anima bianca. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio ZAM. In questo periodo che è sia di Ramadan che di Quaresima, cosa che capita circa ogni 40 anni. Buon ascolto delle mie poesie e ciao, alla prossima, se ci sarà. Dovrebbero fare degli occhiali per i sentimenti, per correggere lo sguardo distorto che abbiamo, miopi in amore, astigmatici nell'odio, ciecati nella vita. Il sonno del nutrio genera mostri. A cosa mi serve un'intelligenza artificiale quando ho già un cervello bacato originale? La poesia è il nulla su cui si basa tutto. Il tempo è un baro. Il mio luogo è la penombra. Luce, ombra, ambiguità, strane divinità d'acqua, kamikaze. Allora, questa... Mi è piaciuta. Sì, sì, assolutamente. L'ultima del nutrio mi è piaciuta. Questa volta non c'è stato un po' il lavoro di, insomma, di suoni, di mixaggio, perché siamo andati un po' all'ultimo momento, quindi l'abbiamo date nude crude. Vi dico che forse avremo un'ansa da Pechino, se riusciamo a mandarvela, forse c'è un foglio, un'ansa, però non lo so, prima manderemo Tony Pitone sicuramente per non sdrammatizzare. Sì, dai, sarei guadagnato, no? Dopo Sanremo, dai. Tony Pitone. Va bene, mandiamo dopo Tony Pitone, dopo i poeti. A tutti quelli che sono sempre in macchina, insomma. Ragazzi, in mezzo a Civita Occidentale. Patente. Sono un fidanzato, un conducente. È da due anni che non cambia niente. Guido più di Hamilton, Schumacher, Vettel. Dici amore mio, vienimi a prendere. Sono a 15 km da te. Ti lascio a casa a piangere. E non mi importa se le tue amiche sono offese con me. Non ti prenderò. Sto cazzo! Non ti toccare perché mi incazzo. Spegni sta luce che mi fa diventare pazzo. A volte lo giuro, ho pensato, ora mi ammazzo. Mio amore mio, mi dici dove sei? La mia amica mi ha lasciato dai miei. Mi sento come un taxi driver, sei una prima donna. La benzina a 2 euro, porca madonna. Ce l'ho fatta, però non guido, ho paura, quindi mi puoi passare a prendere tu lo stesso. Va bene, in stratema con il prezzo della benzina che sale, diciamo. Allora, invece, da un vecchio articolo provo a declamare Luciano Canfora. Scusate, vai. Aspetta, no, vi mando in malacchia prima. Devo trovare la luce. Vi mando in malacchia. Va bene. Dei bravi ragazzi, bravissimi. Patto Atlantico è il santo graal dell'Occidente. Qualche dizionario presenta i due concetti come sinonimi. I soci fondatori avevano tutti un tratto in comune, usurpavano o avevano appena perso un dominio coloniale. Più eleganti degli altri, gli Stati Uniti, sin da inizio 800, avevano proclamato l'America meridionale proprio giardino di casa, sfidando il ridicolo, l'Italia, pur sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, aveva elemosinato di conservare almeno le colonie prefasciste. Ma alla metà del Novecento, quando nacque la NATO, il mondo colonizzato era in rivolta. Non era facile riproporre il vecchio predominio. Ci voleva un veicolo nuovo. Le parole propinate allora al mondo furono le più comode: libertà e democrazia, usate spesso come utensili intercambiabili. Ripulito così il linguaggio, l'Occidente poté dare avvio al sanguinoso sforzo di ricolonizzare i continenti che stava perdendo, ma il resto del mondo non rimase inerte. Ma sì, aspetta, se vuoi darmi, c'era l'ansa da Pechino? C'era l'ansa da Pechino, non ho le cuffie, sono in diretta, vi trasmetto l'ansa da Pechino e sì, è in diretta anche questo, poco dopo la smentita del governo spagnolo. Adesso mandiamo in onda: governo Pechino ha deciso di bombardare Compound, dove si trova dittatrice d'Italia e i suoi accoliti governanti, e spera che il popolo italiano prenda in mano le redini del proprio destino. Siamo rimasti senza parole, signori. Questi sono i Domine. Oh, alcune rettifiche che ci arrivano in diretta. Allora, prima di tutto chiediamo scusa all'imperatore perché la sua inviata dal duodeno arrossato del paese non è riuscita a inserirsi nel montaggio perché abbiamo sbagliato noi, ma la prossima volta verrà riproposto il pezzo del duodeno arrossato. E tra l'altro ci correggono con Mario Monti, no Cesare Monti, Mario Monti, il banchiere del Fondo Monetario Internazionale. Vabbè, giustamente, giustamente. Abbiamo anche accorti. Delle notizie da Livorno? Da Livorno sì, ci dicono di comunque presentare sostanzialmente che la puntata in onda stasera è dedicata a Desi Lumini. Un intervento dell'imperatore in diretta: gli USA esportano democrazia e bombe solo dove c'è petrolio, a buon intenditore. Pochissime parole, ma una buona birra, no? Una buona birra, sì, sì, sì, ce la berriamo, dai, ce la beviamo. Mangiare con la birra e mangiare da re. Conoscete questo proverbio? No, che strano. Guardatela qui, quanto è bella e quanto è giusta. Noi intenditori sappiamo quanto è giusta la birra a tavola, perché la birra si accompagna con un sacco di cose, è leggera e ti lascia più leggero delle altre bevande alcoliche. Del resto c'è anche quell'altro proverbio: a buon intenditor offri una birra. Meditate, gente, meditate. Pillola rossa, la singoia.